Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Pietro Lacorte in regia. Sì, parliamo di basket come ogni venerdì, poi avremo tutto il weekend per parlare di altro, dalla pallavolo meravigliosa che gioca domani col Brasile, al calcio che gioca stasera, ai motori, e domenica mattina ci divertiremo. Insomma, oggi però il basket come ogni venerdì su Radio 24 Palla Spicchi con Coach Dan Peterson. Ciao Coach. Ciao caro amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. E oggi qui vicino a me un signore che adesso lo faccio arrabbiare subito, è candidato per lo scudetto, Bruno Arrigoni, GM di Cantù. Lo scudetto di che cosa non si sa, però uno scudetto. Cantù tra le favorite, secondo me. Perché se attacco a Siena, no, c'è Milano che vediamo com'è, e c'è anche Cantù che l'anno scorso e non ha cambiato niente. Ecco, non ha cambiato niente. C'è un gruppone, ecco. C'è un gruppone. E nel gruppone c'è Cantù. Noi faremo l'elastico e poi vedremo alla fine. Coach, invece da te volevo partire da questi due numeri, 92 a 88. Sì. Barcellona batte Los Angeles Lakers. Di Barcellona che batte Lakers. Il campione, non era squadra di bassa classifica, sono il campione e capolavoro di Barcellona, tanto di cappello a loro. Sì, i Lakers sono andati lì per fare un'esibizione, e il Barcellona invece per fare una corrida, per giocare una battaglia. È la partita da vita, ovviamente campione di Europa contro il campione dell'NBA, se vogliamo dire al limite, nel senso tra virgolette campione del mondo, anche se Lakers all'inizio della preparazione e anche degli amichevoli, Barcellona già lanciato in campionato, però è un test importante, l'hanno rispettato. Barcellona ha fatto benissimo, un grande colpo, diciamo, a favore del basket europeo, cioè ci fa grande onore, grande pubblicità, grande cassa di risonanza. Sì, complimenti a loro. Mi viene sempre in mente quando tu dicevi che Milano era la 24esima squadra dell'NBA, a Barcellona adesso sono 30 l'NBA, adesso Barcellona può dire, e senza paura di essere smentiti, che loro sono la 31esima squadra dell'NBA, nessuno può dire diversamente. Senti Coach, invece parlando con Bruno Arrigoni di Cantù, io prima dicevo nel gruppone delle favorite, Cantù è quella che è andata più vicina a Siena come spirito l'anno scorso, perché era una piccola Siena, poi ovviamente aveva minore qualità, infatti ha perso quella serie, ma con tutto l'onore delle armi. Addirittura quest'anno non ha cambiato niente, ha dovuto cambiare il playmaker, ne ha preso un altro con lo stesso nome, Green. Yeah, well, Arrigoni, stiamo parlando di Bruno lì, che è il mago del mercato, perché vorrei che lui facesse le spese per me qualche volta, okay? Quindi è veramente bravo in questo, anzi, bravo non è neanche giusto dire, è super in questo. E lo abbiamo visto in pre-campionato nel trofeo Lombardia, ad Esio, finale contro Milano, e ho detto a Bruno e anche a Andrea Trinchieri, l'allenatore della squadra, che è una squadra solida, e Luenz, penso che sia lui che mi fa pensare a Russ Cheney, a altre cose, una squadra veramente completa, che gioca con molto compatta, gioca insieme, non ci sono egoismi, veramente di grande impegno. E come dice Bruno però, che lui cerca di gettare acqua ghiacciata sul fuoco, di far pompiere, come dicono, non vuole questi grandi entusiasmi all'inizio dell'anno, lui vuole fare il campionato domenica per domenica e vedere come le cose vanno, però bisogna dire in franchezza, noi come reporter, che loro stanno facendo, hanno una bellissima squadra e stanno facendo veramente bene in pre-campionato, creando una mentalità vincente. Ti va bene così, Brunetto? Sì, mi sembra che l'analisi del nostro coach sia esatta. Il fatto di giocare con gli stessi giocatori dell'anno prima, più o meno nel precampionato, ci ha dato così un imprinting di solidità al quale onestamente non eravamo abituati. Ecco, questo ci mette fra le regine del precampionato. Se dopo saremo fra le regine del campionato, sarà ancora tutta da vedere comunque. Coach, io voglio chiederti un'altra cosa prima di salutarti. Tornando ai New York Knicks a Milano, c'è un ascoltatore che tra l'altro, a proposito di contatti, 800 24 0024 per le vostre telefonate e messaggi, 349 238 6666. Mando un messaggio a un ascoltatore che dice che si è un po' annoiato a vedere la partita dei Knicks contro l'Armani, eccetera, eccetera. Io volevo però fare un altro discorso. La grande differenza tra NBA e Europa ormai non è più tecnica, e in campo lo si vede, quasi non è più nemmeno fisica, mi viene voglia di dire che è organizzativa. Abbiamo visto a Milano 3 giorni di uno show organizzato in maniera sbalorditiva. Loro quando scendono in Europa, nel mondo, cioè è come la la quinta armata americana che sbarca in Italia durante la seconda guerra mondiale, non ci sono più scherzi, ok? Cioè, loro sono veramente attrezzati. Faccio un esempio. I Knickerbockers sono venuti qui, una squadra, cioè, Bruno fa una trasferta, va, prende la squadra e va a peso. Quante persone vanno sul Pullman? Al limite 15, ok? Faccio 10 giocatori, 3 allenatori, Bruno e il massaggiatore, sono 15 persone. Quante trasferte abbiamo fatto qui? Loro sono venuti a Milano, dico, voli, 100 persone solamente Knickerbockers, tutte loro sicurezza che non parlavano neanche una parola italiana, però premi per loro, loro gente che sapevano comunicare fra di loro, hai capito? E poi tutto, c'è un'organizzazione indietro che veramente è una lezione per tutti, cioè, e l'Europa fa bene solamente a studiare come le fanno, certo, loro, copiare e magari con grande creatività europea e soprattutto italiana, migliorare le cose, perché l'NBA, in questo intelligente, David Stern, commissario dell'NBA, è venuto al primo Final Four dell'Eurolega l'anno che aveva smesso di allenare, Casalini aveva Milano, a Gand hanno vinto la seconda Coppa dei Campioni in fila. E Stern ha notato l'orologio che nell'ultimo minuto di ogni periodo scattava, cioè, i centesimi di secondo, i decimi di secondo, diciamo. In NBA non c'era questo. Lui è tornato in NBA, in Europa ho visto questo qui, mettiamo qui che scadono i decimi di secondo, che tu vedi, cioè, è normale adesso in NBA, però 20 anni fa non era normale, l'ha messo lui, perché lui ha avuto l'umiltà di studiare quello che c'era qua, e noi in Europa dobbiamo avere l'umiltà di studiare, copiare, sì, e sì, fare le cose, abbiamo solamente da imparare da loro, sono i maestri della, usa la parola, produzione, cioè loro sanno produrre un evento, produrre uno spettacolo, e noi possiamo veramente studiare e imparare. Assolutamente. Coach, ti ringrazio, ci sentiamo venerdì. Ciao, Carlo, ciao Bruno, ciao, un abbraccio. Ciao, Dan, grazie, okay? Ciao. Grazie Coach Dan Peterson, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi spremiamo un po' Bruno Arrigoni sui segreti di Cantù, sulle sue speranze, su come vede questo campionato, sul fatto che l'anno scorso hai usato un'immagine bellissima, no? Sembrava il gioco, quello del gioco dell'Oca. Il gioco dell'Oca, giochi contro Siena, stai fermo un giro. Non so se quest'anno si starà fermi un giro a giocare con Siena. Si starà fermi un giro anche quest'anno. Anche quest'anno. Non ci posso credere. Voi come la pensate? 800 24 00 24, traffico. Palla spicchi. Allora, stavamo parlando, facciamo anche pubblicamente, di NBA. Bruno, stavamo parlando di NBA, di organizzazione NBA, anche di gioco NBA. C'è qualcuno che scrive, con tutti i se e i ma dovuti al momento, ma se il Barcellona batte i campioni NBA, Milano rimane in partita più di un tempo con New York, qualcosa vorrà pur dire, Stefano da Bologna? Vuol dire qualcosa o no? No, vuol dire che, non dico che sono in gita, però chiaramente l'interesse e il valore mediatico che può avere per Barcellona o per Milano di fare una grande partita contro una squadra NBA è molto diverso per una squadra NBA la quale deve solo cominciare la sua preparazione, che sarà finalizzata per arrivare ai playoff. Poi un sacco di messaggi. Franco da Roma, domani parliamo della pallavolo, ma certamente, insomma, abbiamo fatto, lo facciamo tutti i giorni, domani semifinale mondiale, non c'è dubbio, domani ne parleremo, oggi però il basket come sempre facciamo, anche perché tra una settimana il campionato comincia. Vorrei a questo punto, Bruno, farti parlare male dei tuoi nemici sportivi, vediamo se ci riesco. Milano che vuol vincere lo scudetto, e tu hai detto che il gioco dell'Oca sarà sempre, si sta fermi un giro contro Siena. Varese che vuol vincere i derby con Cantù e che ha ripreso Nosley, notizie dagli ultimi minuti. Ma io credo che Milano è una squadra molto forte, molto, molto completa, non ha buchi, non ha incertezza, cioè, diciamo che ha due giocatori per ogni ruolo, poi bisogna fare giocare tutti, però è una squadra forte e completa. E Varese si presenta in maniera energica, hanno sostituito un ragazzo giovane con poca esperienza, con grande fisicità e poca tecnica, rotto, con un giocatore di grandissimo mestiere, di sua esperienza. Insomma, si è visto l'anno scorso che differenza c'era quando c'era Slay, quando no, non c'era Slay. Ecco, sono andati sull'usato sicuro, hanno fatto bene e secondo me Varese può dire la sua in campionato. Può vincere i derby? Speriamo di no. Ecco. Tanto io raccolgo sempre messaggi SMS. Visto che ieri sera ci avete giocato contro, c'è un ascoltatore che si chiama Alberto che domanda cosa ne penso di Biella. Io di Biella non penso nulla perché ancora non la conosco. Tu l'hai vista ieri sera? No, io l'ho vista già 3-4 volte. Secondo me c'è molto entusiasmo, c'è molta voglia di fare. Ecco, l'anno scorso tutti i rapporti era una squadra più difficile. Ecco, quest'anno mi sembrano che ci sia un entusiasmo notevole. A me piace molto Goran Sutton, mi piace molto AJ Slaughter, il recupero di Goran Jura che per me è un giocatore fondamentale, sarebbe fondamentale in qualsiasi squadra. Ecco, mi sembra ci sia molto entusiasmo, molto voglia di fare bene, ecco, che mi sembra una bella base di partenza. Continuo a girarti i suggerimenti che arrivano dagli ascoltatori anche sulla la pagina Facebook del nostro programma. A proposito sempre di Milano, c'è un ascoltatore, Lorenzo Sala: secondo me Milano sta illudendo tutti anche quest'anno, poca roba alla fine. Oppure un altro: l'Armanesiense ha ridotto il gap con Siena, partono alla pari, se non si inseriscono sorprese se la giocano, questa volta alla pari, chi ne avrà di più a giugno vince. Mi sembra un po' ottimistico questo, anche perché il mio pensiero non è molto lontano da quello di Bruno Arrigoni. Attacco al potere di Siena che si è rinnovata molto, ha perso il suo capo tribù Terrell McIntyre, ma ha preso quello, il meglio che c'era in giro, cioè McCaleb, che è un giocatore, e quest'anno lo conosceremo, straordinario. Non credo che sia, almeno non sono d'accordo sul fatto che l'Armani parta alla pari con Siena, neanche Roma, neanche Treviso, neanche nessuno parte alla pari con Siena, che ha, diciamo, dalla sua questa Corea, questo fatto di essere così lungamente assieme, di avere un progetto tecnico e un progetto organizzativo che è da tanti anni collaudato e che ogni anno si migliora. Ecco, Pianigiani veramente è il capopopolo di questo gruppo così coeso. Loro a volte sono veramente la falange macedone che vanno avanti e che non lasciano spazi per niente. Ecco, però Milano ha un organico di tutto rispetto, potrà cercare di scalfire la corazza di questa falange macedone. Sì, i vizi di Milano potrebbero essere legati al playmaking, ad esempio, uno dei difetti più evidenti, dei difetti, delle caratteristiche particolari più evidenti di questa Milano. Un playmaker vero non c'è, non è né Finlay né Jaber. Io credo che un playmaker vero non ci sia da nessuna parte. Io ho dichiarato, per quello che possono valere le mie parole chiaramente, qualche giorno fa, che l'anno scorso il 75% degli allenatori non era contento dei loro point guard, perché non c'è stato molto feeling fra allenatore e point guard in un numero altissimo di squadre. Tant'è vero che io mi domandavo perché uno dovesse stare lì a spaccarsi la testa per prendere un playmaker, quando uno con due guardie probabilmente arriva di là ugualmente, e basta chiaramente siano in grado di non darsi la palla in faccia sempre o di piccare sarà sui piedi, e si toglierebbero tanti problemi, anche perché il playmaker è veramente merce più che rara. Dopo parliamo del tuo, quello che hai preso quest'anno, Mike al posto di Jerry, ma sempre di green si tratta. Ascoltatore 800240024 Cremona, Mino, buongiorno, dica. Ieri sera ho visto Lavanoli contro Armani. Sì, Armani mediamente è rimasta sotto per tutta la partita dai 10 ai 15 secondi. Sì. Mancava Finlay, mancava il Mancio. Forse avevano ancora la testa con New York, però veramente disastrosi. Ha vinto i 2 punti alla fine, ma io penso che per Milano, che io tifo Milano, sì, se vuole vincere lo scudetto dovrebbe accantonare un monumento che è Rocca. E poi diceva, non ho capito bene chi è che è in studio, Bruno Arrigoni, che Milano non ha buchi. Me la cavo con una battuta, ma purtroppo ha buchi. La saluto. Ok, gli ho dato un bel assist, me ne sono accorto subito quando l'ho detto, ho detto orca bestia che asino, va bene. Ma io ho parlato stamattina con qualcuno che ha visto la partita di Cremona ieri, che mi ha detto le stesse cose. Bisogna dire anche che siamo proprio in precampionato, che non sempre i giocatori sono al 100% della loro concentrazione, ed è sicuro che i giocatori di di Cremona, della Vanoli, saranno stati molto più motivati e molto più concentrati dei giocatori di Milano che dovevano andare a fare questa partita così, ecco. Poi, per cui io non gli darei così importanza. Poi vale un po' quello che come nel calcio, no? Chi vuol vincere lo scudetto all'inizio della stagione magari a tempi più lunghi, a tempi diversi, ecco. Poi per quello che riguarda Bucchi, infatti una delle cose così che meno mi sono piaciute della partita di Milano con gli Hornicker Bockers è stato sono stati i fischi per l'allenatore, al di là della ingenerosità e al di là così della maleducazione in un momento che era di festa, per cui questi fischi veramente c'entravano come i cavoli a merenda. Ecco, secondo me Bucchi è un eccellente allenatore, è un uomo intelligente, ma non devo essere io a difenderlo, c'ha una carriera alle spalle, la società fa bene a puntare su di lui. Certo che tutti noi che siamo stati allenatori sappiamo che abbiamo un tempo, certo. Ecco, per fare le cose sai bene, Bruno, magari è successo anche a te, c'è un rapporto che un po' strappato tra Bucchi e una parte della gente milanese. I fischi Bucchi l'altra sera non sono stati meno rumorosi di quelli che abbiamo sentito nella finale scudetto, cioè applausi per tutti, fischi me lo ricordo bene, in parte per Bulleri, certamente per Piero Bucchi. Sarà capitato anche te di avere... Cantù è un'isola strana, molto, molto bella e molto assolata, però da allenatore o da general manager ti sarà capitato di avere questo rapporto, certo, difficile? Un po' di contestazione c'è stata nel passato, così. Però a parte, secondo me erano inopportuni per il momento proprio storico, questa serata di vipperia, di festa, dei ritorni, così, il fatto di dover fischiare qualcuno era assolutamente inopportuno. Sì. Poi dopo per la carità, e poi dopo il tempo sarà galantuomo e ci dirà quello che farà Milano nel suo campionato. Io, per quello che mi riguarda, credo che poi si prenderanno a Cantù, sarò felice, ecco, però credo che faranno bene. Senti Bruno, parliamo un po' di nuovi protagonisti di questo campionato che andiamo a scoprire tra una settimana. Io parlo dei tuoi, questo Mike Green, come si diceva prima, che giocatore è, che storia ha, da dove arriva, chi è Mike Green? Diciamo che è un giocatore che ha fatto molto bene al college ed è uscito con il pennacchio, cioè con un giocatore che ha fatto molto bene al college, che poteva essere... passare perlomeno per una seconda scelta alta, non è stato scelto, è andato in Turchia, è andato in Belgio. Lui aveva voglia e ha voglia di misurarsi con un campionato di livello tecnico superiore. In questo momento la cosa che salta all'occhio è che ha una fortissima fisicità, proprio un torello. Sabato sera contro Biella ha preso 9 rimbalzi in difesa e lui sarà 1,82, 1,83, mica di più, però ha molta forza fisica addosso. Deve capire ancora bene dove deve andare la palla, nel senso che una volta deve tirare Mazzarino, una volta deve tirare Marcosvili, una volta deve andare la palla sotto, una volta deve tirare Lunen, ecco, questa cosa deve ancora affinarla, deve ancora, però ha una fisicità veramente straripante e ha un tiro migliore di quello che ci aspettavamo. Forse è meno bravo in penetrazione di quello che ci aspettavamo, però ha molto più tiro, segna tutti i personali quando conta, e questo mi sembra già una cosa abbastanza importante. Lo scopriremo giorno per giorno. Secondo me è un ragazzo in gamba, ecco, ripeto, ormai io sul playmaker, prolungamento del braccio dell'allenatore in campo, veramente ormai a questo tipo di giocatore non credo più, e quindi mi accontento di uno che difenda forte e che così cerchi di far andare la squadra. Anche perché Trinchieri le braccia in campo le allunga da solo, perché da noi il leader incontrastato di tutto è, e come è giusto che sia, anche l'allenatore, il quale veramente trasmette veramente dei messaggi tecnici e umani costantemente, e che per fortuna vengono recepiti e che non vengono mai rimbalzati, sì. Perché Andrea non è sicuramente tenero in allenamento e in partita, però non ci sono mai stati gesti o momenti di insofferenza, quindi vuol dire che i giocatori hanno capito che i messaggi che lui manda sono messaggi per far crescere i giocatori e contestualmente la squadra. E poi inutile dire che i risultati dell'anno scorso hanno aumentato la credibilità di tutto quanto, compreso di Trinchieri, che è un allenatore, davvero un leader, hai ragione tu, sì. È un leader di questa, è il leader di questa squadra. Ci fermiamo per le notizie sulla borsa, subito dopo torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde se volete intervenire, siamo qui. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui vicino a me, Bruno Arrigoni, l'anima di Cantù. 800 24 00 24, non ho ancora sentito un canturino. I canturini lavorano, fiacca. Canturini lavorano. Compenso abbiamo Massimo da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve, buongiorno. Volevo intervenire sul discorso che è stato fatto prima sulla mancanza di playmaker in circolazione. Sì. È un discorso un po' vecchio, io sono un vecchio playmaker, ho smesso da anni di giocare a basket, ma ero il classico playmaker che tirava poco e organizzava il gioco. Sì. Io penso che negli ultimi 20 anni c'è stata una politica precisa di far scomparire i playmaker, perché era considerato un giocatore un po' inutile, nel senso che con il tiro da 6 metri e 25 da 3 punti era un giocatore inutile che arrivava lì e invece di provare a tirare cominciava a fare il classico gioco. Io immagino adesso che con la linea da 3 punti che sia stata spostata, forse ritorna indietro questo discorso e ci va il giocatore che organizza la squadra e la fa giocare. Ma non è un discorso da adesso, forse il primo playmaker anomalo per uno come me che era vissuto nel mito di Mike D'Antoni, avevi il libro Playmaker altri, e il nuovo playmaker penso sia stato il primo Nando Gentile. E poi con l'evoluzione di Carlton Myers, per uno della mia generazione l'allenatore diceva che come si arrivava lì minimo prima di tirare bisognava fare 4-5 passaggi nella squadra, vedere playmaker o guardie che arrivano invece di provare a giocare fanno il primo tiro e si stampa sul ferro, non è un bel modo di vedere di sinceramente un po' di nausea mi è venuta, che dire, in un'ottica di breve periodo se uno fa canestro va bene, ma se inizia a sbagliare nausea è tanta roba, no? Okay. No, il primo playmaker invece sui generi secondo me playmaker realizzatore fu quello che nell'83 a Mike D'Antoni rubò lo scudetto, cioè Larry Wright, che era un playmaker con 30 punti nelle mani stabili e fissi. Però insomma è chiaro che coach Bruno Arrigoni il ruolo ha subito una evoluzione. Poi vediamo giocare Ricky Rubio, che dimmi che non è un playmaker, insomma. Sì, io non sono un grande fan di Ricky Rubio, onestamente, perché è un giocatore senza tiro che quindi si intorcina a fare le cose più difficili del mondo, perché essendo senza tiro fa fatica e quindi deve sempre cercare qualcosa di estremamente creativo, estremamente difficile. Ecco, vabbè, diciamo che il primo playmaker realizzatore è stato Bruno Amonti, perché Roberto Bruno Amonti è stato veramente il paradigma del playmaker con i punti nelle mani, sì. Ecco. E secondo me è stato un giocatore moderno e antico alla stessa maniera. Io posso andare indietro, Giulio Iellini, Aldo Ossola, Rusconi, Massimo Cosmelli, ecco, gente che ha smesso di giocare, che la maggior parte di quelli che ci ascoltano non erano ancora nati, per loro fortuna. Ecco, però è vero che oggi abbiamo un sacco di giocatori che sono giocatori piccoli che sono bravi a giocare solo con la palla in mano, cioè sono guardie che sono bravi a giocare solo con la palla in mano. La guardia è il giocatore che va in giro per il campo sui blocchi, gioca senza palla, poi quando prende il pallone o giocano uno contro uno o tira. Questi giocatori piccoli che giocano solo con la palla in mano, per cui li hanno nominati playmaker, ecco, anche se loro non lo sapevano, ecco. Senti, a proposito, ti faccio un'altra domanda da allenatore, che è uno dei temi che più intriganti di questo avvio di stagione. Prima si parlava di linea da 3 punti e così via. Cambia in questo campionato, in questa stagione, cambia il disegno del campo. Come ben sappiamo, l'area rettangolare va bene, ma soprattutto quella linea spostata un po' indietro. Questo nuovo disegno del campo, questa nuova geometria del campo, ovviamente stiamo parlando di regole, cosa cambierà, Bruno? Ma cambia tanto questo, poco. Che no, qualcosa cambia. Io non ho visto queste cose travolgenti, però sicuramente su tutti i pick and roll centrali e anche quelli un po' laterali, lo show del lungo che esce a difendere sul pick and roll, sui giochi a due, non sarà più così energico e così lungo come poteva esserlo fino all'anno scorso, perché altrimenti si apre veramente una voragine in mezzo all'area dove è fin troppo facile servire il Mason Rocca della situazione che rolla a canestro. Sì, quindi Sean Rook assalta il playmaker avversario e lo vediamo più. Ci sarà molto più contenimento, ci sarà qualcuno passerà in terza, qualcuno passerà in quarta, ci sarà molto più contenimento che show forti. Ciò che riguarda l'attacco, questa linea da tre punti così tira via un pezzo di campo all'attacco, perché dall'angolo sarà impossibile tirare da tre punti, perché basta che uno metta a posto i piedi e mette il piede fuori dal campo. Per cui c'è un pezzo di campo che viene negato all'attacco, per cui piano piano si comincerà a giocare, non dico da sopra il prolungamento dei 45 gradi all'intersezione con la linea dei tre punti, però sotto non ci si andrà tanto volentieri, perché veramente in ogni partita ci sono tre volte per squadra vengono chiamate infrazioni sulla linea laterale nell'angolo. Sì, qui possiamo parlare di questa necessità di cui già si è detto di allargare il campo e di portarlo a 16 metri come o 15 metri come l'NBA. Allora uno sfrutta il campo per intero. Ecco, probabilmente il campo va allargato di un metro, probabilmente. Sì, anche perché basta che uno porti il 50 e non è raro di piede, non ci sta fisicamente. O tira sempre da due perché ci mette il piedone sopra la linea, oppure mette il piede fuori dal campo. Va fuori dal campo. Tornando invece a fare un po' di radiografia del campionato, no, prima facciamo invece un po' di radiografia della partita che abbiamo visto ieri sera. A me sono state tutte le linee telefoniche, messaggi eccetera, però ho segnalazioni dalla regia con i segnali di fumo da Franco Piantanida. 800240024 per le vostre telefonate, però adesso è in linea chi ha commentato la partita ieri sera, la vittoria del Barcellona sui Los Angeles Lakers, cioè il mio amico Jerry De Rosa. Ciao Jerry. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Senti, come dicevo prima con Coach Peterson, i Lakers erano lì per la loro esibizione programmata, no? Mentre il Barcellona era lì per fare la corrida. Ah, sicuramente, ma la corrida accettata fin dall'inizio anche dai Lakers è stata una partita vera, bellissima. Insomma, va sottolineato il fatto che i Lakers adesso non sono sicuramente quelli veri, però va altrettanto sottolineato il fatto che hanno giocato al massimo che potevano dare in questo periodo della stagione. Sono stati costretti non a corricchiare, non semplicemente ad esibirsi, ma a giocare una partita. E non è bastato, segno che insomma non solo il basket europeo è cresciuto, non solo il Barcellona è una squadra fortissima e che qualcosina, secondo me, al di là di quello che ha detto Phil Jackson, potrebbe fare anche nel campionato NBA. Insomma, è segno che anche i campioni NBA ormai devono essere meglio per poter giocare contro le squadre top d'Europa. Sì, certo Bruno, non so se hai visto la partita di ieri sera, che era impegnato in Cantubiella. Però anche questi Lakers alla fine che vengono lì vedono che il Barcellona vuole incornarli e hanno tutto sommato accettato la sfida, perché Kobe Bryant non era in condizione di giocare una partita di pallacanestro, eppure alla fine, come ha scritto peraltro oggi Luca Chiabotti, il suo pregio che ci ha messo la faccia nel finale, ha voluto tornare in campo pur non essendo in condizione, entrare, sbagliare, perdere. Poi chiaramente loro non ci sono stati a perdere. Ecco, era chiaro che il Barcellona, ripeto, avesse 101 motivazioni di più. Era chiaro anche che quando le squadre NBA nelle loro esibizioni europee giocano tra di loro, si rispettano molto di più e prendono subito questo ritmo lento del maestro Gambara, come diceva Alberto Sordi, per cui trotterellano dall'inizio alla fine. Qui invece questi li hanno cominciati proprio come alla corrida a cacciargli delle bandierillas nella schiena fin dall'inizio. È chiaro che sono giocatori orgogliosi, poi la condizione è approssimativa ed è quella che è. Ci hanno anche provato, ora non si sa se è meglio averci provato e poi aver perso, o se era meglio non provarci affatto e perdere. Darla su e ciao, ecco. Come dicono a Bologna. Senti, Jerry, invece, guardando il Barcellona così, però a pensare all'Eurolega viene il mal di testa, verrà il mal di testa a tutte le altre, eh? Non c'è dubbio, il Barcellona, se possibile, è ancora più forte dell'anno scorso, settore lunghi che è incredibile con l'arrivo di Perovic. Pasquale sta riuscendo anche in queste prime uscite a dividere alla grande i minuti, tanto che tutti e cinque i lunghi che sono presi uno per uno giocatori da 30-35 minuti in altre squadre giocano e hanno impatto in 13-15 minuti a testa. E poi secondo me c'è Navarro che non finisce più di stupire, è ancora in una crescita impressionante, continua ad avere un impatto incredibile anche in partite come quella di ieri in cui fatica a trovare il canestro da lontano, però poi quando c'è da segnare lo segna sempre. Credo insomma che si sia spaventato tutta Europa a vedere Barcellona ieri sera. La nuova geografia cosa dice questa Eurolega? Chi si è rinforzato così a grandi linee, Jerry? Ma, come l'anno scorso? Olympiacos, Panathinaikos? È tutto da vedere perché Panathinaikos ha preso Statoma, sì. Non c'è dubbio che sia un giocatore che ci può fare la differenza, però ha perso Spanulis forse alleggerendo un po', togliendo un po' di rivalità nel settore esterno, però ha perso un giocatore del calibro di Spanulis, quindi è da vedere. Insomma, l'anno scorso è sembrato obiettivamente sulla strada del calo il ciclo del Panathinaikos. Ed Olympiacos, che ha preso Spanulis, invece si è potenzialmente rinforzato, è preso secondo me un giocatore di cui sentiremo parlare tantissimo nei prossimi decenni di Eurolega, che è Kecce, il giocatore serbo che ha incantato secondo me ai mondiali in Turchia. E poi io sono molto curioso di vedere, intanto lo vedremo già la domenica a Siena nel nuovo assetto, sicuramente un po' più leggero però molto molto interessante. Faticherà, però obiettivamente in Eurolega è una manifestazione in cui insomma avere gente grande e grossa in mezzo all'area conta sempre la differenza. Conta sempre. Grazie Jerry, buon lavoro. Grazie a voi, ciao a tutti. Bruno, prima di parlare con un canturino, se ci ascoltano, Mauro da Cantù è in linea. L'Europa di Cantù invece come sarà? L'Europa di Cantù sarà un'esperienza affascinante e difficilissima, perché io quando ho visto il lotto delle partecipanti ho detto oh mamma mia, ecco, perché il livello è estremamente alto, qualitativamente altissimo, le squadre che escono dalle qualificazioni sia dall'alto che dal basso sono tutte squadre molto attrezzate, però il fatto di poterci confrontare con un palcaresto diverse, con le difficoltà dei viaggi e tutto, secondo me sarà un fattore di crescita per la nostra squadra. È rischioso. Biella l'anno scorso, ricordiamo, da una stagione meravigliosa passò una stagione molto difficile, infortuni americani, mille circostanze, mille situazioni. Sì, non erano neanche serenissimi. Ecco, noi confidiamo. Un po' di paura nell'affrontare questa avventura europea? Che toglierà tante energie? Ma noi speriamo di no. Noi abbiamo anche una panchina abbastanza attrezzata oggi rispetto a quella dell'anno scorso o di qualche anno fa. Per cui io credo che sarà un grande fattore di crescita questo per i nostri giocatori, che sono, a parte Mazzarino lì, Villarzilla, Mazzarino, Mian e Marconato, ecco, a parte questi, ecco, gli altri sono tutti giocatori giovani anagraficamente e con grandi possibilità, margini di crescita tecnica. Per cui io la vedo in positivo e penso che sarà una bella stagione. Traffico poi Mauro da Cantù, 800 24 0024, numero verde, vi aspettiamo qui. Palla spicchi. Ecco il canturino, Mauro da Cantù, buongiorno. Buongiorno e un caro saluto al grande Bruno Arrigoni. Grazie. Dica. Io l'ultima vostra chiacchierata mi ha un po' bruciato le due domande che erano proprio sulle grandi novità di quest'anno di Cantù. Il ritorno in Europa, che per noi comunque è cosa gradita, sappiamo che è difficile, sappiamo che può essere molto faticoso per una squadra come Cantù, però per noi che abbiamo una tradizione, ci sta davanti solo il Real Madrid nella storia europea, tornare in Europa comunque è respirare un'aria di casa e siamo contenti di tornarci perché fa parte della nostra storia. Non c'è e quindi su questo. Corriamo il rischio volentieri. Abbiamo visto che le squadre in Eurocup, c'è il Galatasaray, c'è Gran Canaria, ci sono grandissime squadre, Bruno l'ha detto prima, e quindi ci confronteremo anche con... probabilmente con squadre importanti, ma siamo ben contenti di farlo. Anche perché, e altra domanda appunto era collegata alle cose che ha detto prima Bruno, ma vorrei qualche approfondimento, abbiamo finalmente una panchina che ci sembra un po' più lunga degli ultimi anni. Ma volevo in particolare da Bruno un commento su Marconato, come lo sta vedendo in allenamento, nelle partite, perché Marconato è un uomo di grande esperienza, molto serio, bisogna capire però quanto fisicamente può ancora dare, esatto, sì. Perché per noi potrebbe essere veramente una pedina fondamentale, perché Horner è un centro che contro centri molto grossi può far fatica perché è veloce, invece Marconato ci può dare qualcosa che l'Ideca dava ma con meno esperienza e meno tecnica. E poi anche cosa ne pensa di quelli che, appunto, perché il quintetto l'ha detto prima di Green, gli altri li conosciamo già, cosa pensa in due parole di Tabu e degli altri giovani che sono arrivati. Playmakerino belga e poi Dukulis, altro innesto al posto di Rideka. Vabbè, è chiaro che i due pezzi forti della nostra panchina, al di là di Mazzarino che è la nostra assicurazione sulla vita, ecco, sono Tabu e Marconato. Sono giocatori complementari, in quanto noi abbiamo potuto prendere Tabu perché abbiamo messo Marconato al posto Lideca, cioè non abbiamo messo un italiano, abbiamo potuto mettere uno straniero dalla panchina sul perimetro. Ecco, noi da Marconato non ci aspettiamo niente di più di quello che ha fatto in tutti questi anni, cioè pallacanestro, scienza, capacità di giudizio, giocatore positivo in tutti i momenti. Ecco, sappiamo che non è freschissimo, però lo sa anche lui, lavora molto bene, lavora tanto col preparatore atletico, è benissimo. Poi che guarda Tabu, noi da Tabu ci aspettiamo molto, un giocatore di talento, un giocatore fresco, con un'ottima mano, ecco, che gioca una pallacanestro un po' naif in questo momento. Ecco, deve diventare un giocatore più tecnico, migliorare le sue capacità di scelta, e questo sarà il vero salto qualitativo della panchina. Ma per quello c'è il Trinca, quindi ecco, sì, col bastone in mano, col bastone. Già ce lo vedo. Luigi Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo ritornare su quei fischi a buchi veramente, dico tristi, perché sono un vecchissimo tifoso di addirittura dell'ultimo anno del Cement. Io non riesco a capire dove stia andando il pubblico di Milano, perché con una storia così gloriosa, avere un pubblico così, secondo me abbiamo un grande sponsor, uno che caccia i soldi, siamo di una grande città con una storia alle spalle, insomma, che lo stesso Arrigoni, insomma, l'ambiente l'ha un po' frequentato pure lui, ma che ci ritroviamo con, francamente, vado qualche volta a vederli, io non riesco a capire, veramente lo dico, non riesco a capire cosa possa fare, quale mago della panchina, che ne so, Phil Jackson scende da Messina, cioè il livello è questo, i giocatori sono questi, certo, se vogliono vedere Mancinelli lanciare la palla in aria e Bigiano schiacciare allora, il al problema, no, ma come dicevo prima, abbiamo detto molte volte, insomma, a Milano non ci sono storie, devi vincere, comunque devi essere sul serio competitivo. Se non tu sai già che parti e giochi per il secondo posto, finisce che fai 2000 al palazzetto come nelle ultime stagioni. Quanto a questo, evidentemente qualcosa si, in questo Buchi c'entra poco, però è evidente che qualcosa si è logorato nel feeling tra una parte del pubblico milanese e Piero Buchi. In questo ci si può fare, io credo, davvero poco, perché è una storia non di ieri, non della notte dei Knicks, è una storia che va indietro nel tempo e ricordavo i fischi alla finale scudetto. Dunque tant'è. Abbiamo il professor Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Maestro, va? Elementare. Che cosa ne pensi di questo discorso innestato dall'ascoltatore? Ma ho sentito solo l'ultimo pezzo, però penso di averlo identificato, visto che è un tema molto gettonato. Ma penso che, parlo in generale, io non sarei in grado, però non mi ricordo più, la notte dei tempi quando ero un tifoso, ma con gli occhiali che ho adesso, e ne ho due paia, se devo guardare al tifoso non mi sentirei in grado di costruire o rompere un feeling con un allenatore. Posso sicuramente fare le mie valutazioni ed è legittimo e normale su come gioca la mia squadra, però non potrei costruire così a ragion veduta il feeling con l'allenatore, per il semplice motivo che il modo in cui gioca la squadra non è solo figlio dell'impostazione che le dà l'allenatore, tutt'altro. Quindi non lo so, mi sembra troppo condizionante questo aspetto per poter dare un giudizio su chi ha ragione tra le eventuali due parti in gioco. Senti Flavio, volevo un confronto tra te e Bruno Arrigoni su un tema che prima abbiamo toccato e che mi interessa molto, e cioè quali novità, quale apporto vedi alla nuova stagione da quel nuovo disegno del campo. Quanto influirà la nuova geometria del campo, il tiro da tre più lontano, l'impossibilità di sfruttare gli angoli, eventualmente il semicerchio per gli sfondamenti, quanta influenza avrà su questa stagione? Ma io penso il giusto, se devo dire la verità. Poi Bruno senz'altro può dare una risposta molto più tecnica, molto più avanzata della mia, però vedendo le partite così, l'unica cosa che noto veramente è che cambiano i tempi e le modalità delle situazioni di recupero. Cioè, se faccio un aiuto, se faccio un raddoppio, poi quando penso, se ho l'esigenza o la scelta di recuperare, ecco, allora le cose cambiano, perché per una serie composita di motivi c'è più strada da fare. Quindi vedo tanta gente che inizia un recupero, ma quando inizia quel recupero, perfino io che capisco poco, vedo che non avrà nessuna possibilità poi di interferire col tiro. Credo che alla fine dovrebbe portare gli staff tecnici a fare delle scelte più nette. Se raddoppio, raddoppio, se non raddoppio, non raddoppio. Non puoi più fare un po' mezzo e mezzo come prima, per tanti motivi era possibile fare. Però stiamo parlando di una cosa che va un po' nelle pieghe del gioco, perché guardandolo così con gli occhi normali io non vedo tutte queste grandi differenze. È così, Bruno? Ma sì, credo anch'io che sostanzialmente poi rimane la stessa cosa. Ecco, ci sarà meno sagra del tiro da tre. Ripeto, quello dall'angolo l'hanno già tirato via, perché sono tutti tiri da fuori campo. Sono. Sì. Ecco, e per quello che riguarda gli aiuti, io credo che, dato per scontato che la linea dell'aiuto è la linea canestro-canestro, anzi credo che da questo punto di vista la difesa potrà recuperare meglio, visto che sul tiro, specialmente i tiri dall'angolo, per l'attaccante sarà molto difficile tirare, quindi potrebbe essere sufficiente chiudere una penetrazione recuperando. Ripeto, secondo me la cosa fondamentale è che certi show e certi aiuti molto energici e prolungati, come si vedevano le scorse stagioni sui pick and roll centrali, non si potranno vedere più, perché chiaramente si apriranno delle voragini all'interno che, con i tiratori messi, come si dice adesso, con le spaziature giuste, ecco, dopo sarà veramente difficile da recuperare sul tiro, per cui si vedrà molto più contenimento, quello che viene chiamato da tutti blu, che vuol dire mandare sul fondo sui pick and roll, che non si capisce perché tutti lo chiamano blu, ecco, e si vedrà molto più fondo sui pick and roll laterali e molto più contenimento sui pick and roll centrali, ecco. È un tema interessante delle prime giornate di campionato, secondo me, proprio l'evoluzione tattica, certo, del gioco con questo nuovo disegno. Flavio, per chiudere, visto che qua Bruno Arrigoni, una tua valutazione su Cantù, quella che io prima ho detto in apertura di trasmissione, giusto per caricarlo: Cantù tra le candidate allo scudetto. L'anno scorso è arrivata in fondissimo, quest'anno non ha cambiato niente, quindi ha imparato anche da questo punto di vista la lezione di Siena. Ha cambiato un playmaker, Green, ne ha preso un altro, Green, quindi anche lì non cambia nulla. Insomma, l'anno scorso Cantù, al di là delle battute, è quella che è andata più vicino a Siena come anima, poi si era vinto perché era più forte. Quest'anno non ha cambiato niente, quindi secondo me sarà ancora una cosa seria. Penso che Cantù nel suo campionato sia esattamente quello che è stata Siena nei suoi campionati nelle stagioni scorse. Naturalmente il campionato di Siena era di vincerlo, e il campionato di Cantù non credo possa essere, lo auguro a Bruno e ad Andrea, ma ne dubito, di vincere il campionato in senso stretto. Però oggi non è una battuta dire che Cantù sarebbe una serissima contender per la finale scudetto, però la finale scudetto non si gioca oggi e non ci si qualifica oggi. Il discorso è, così come Siena nella sua categoria, quello che fanno, o meglio quello che non fanno gli altri, è quello che fa Cantù e faceva Siena, ha fatto Siena nell'era McIntyre, Sato, eccetera eccetera, cioè avere un'interaiatura sicura, un asse, allenatore, giocatori chiave, società, ambiente di un certo tipo, è particolarmente premiante, più con rispetto parlando, perché gli altri non riescono, non possono, non riescono ancora, non possono ancora farlo, che non necessariamente per il senso stretto di quello che fanno quelli che lo stanno facendo. Grazie Flavio, alla prossima. Ci sentiamo. A voi. Ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo venerdì, Bruno. Noi ci vediamo presto sui campi, spero, ma anche in questi studi. Grazie. Grazie a voi, molto bello. Bocca al lupo a te e a Cantù. Tra una settimana comincia il campionato di basket. Già vi dico che la domenica torneremo dalle 8:30 alle 9:00, da domenica 17:00, per parlarvi di campionato di basket. Grazie a Franco Piantanini in redazione, Pietro Corti in regia. A domani. Palla Spicchi.